scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti delle feste con le nostre voci in scena, i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un cantautore italiano molto indipendente. Vecchi vestiti nuovi, le tue carezze rimaste in mano bruciano di più. È nato a Milano nel 1971. Ha iniziato l'attività musicale come componente del duo Caligola, che ha partecipato a Sanremo Giovani nel 1995. Nel 96 il duo apre concerti internazionali come quelli di Tina Turner e Zucchero. Fonda poi la compagnia dei Cani Scossi, con la quale pubblica l'album La Stirpe di Caino. Nel 2004 da solista pubblica l'album La Spina, nel 2007 Milano Babilonia. Nel 2008 domina il premio della musica d'autore Musicultura. Nel 2011 il disco Generi di Conforto. Il 2015 è l'anno del nuovo album Outside is My Side. Lui è Folco Orselli. Vecchi vestiti nuovi, tornare a prenderti. Prima questo disco si doveva intitolare Vecchi vestiti nuovi, che è un pezzo che poi tra l'altro è contenuto lì, per una questione di ciclica temporale. Poi qualche mese prima della pubblicazione mi sono fatto una domanda che continuo a farmi da tanti anni, cioè forse non è meglio rimettere in questi tempi una giacca tra virgolette da guerrigliero e affermare qualcosa a cui tengo molto. Credo che sia importante in questo periodo fare una distinzione. Io ho 44 anni, questo è il mio quinto disco, ho deciso da che parte stare. Outside is my side, perché per essere, diciamo, opposti all'altra fazione, che sono gli insider, il mainstream, tutto quel mondo. Parlo di arte, ma non solo, parlo di modo in cui si intende la vita, l'esistenza. Te lo chiedo subito, perché tu hai lavorato con Gino e Michele, che non sono esattamente dei produttori discografici, no, gli ascoltatori li conoscono, sono padri della comicità degli ultimi anni, degli ultimi 20-30 anni. Sì, io credo che la scuola milanese in generale abbia sempre visto flirtare, diciamo, la comicità, la satira con i cantautori. La nostra storia è così. Penso a Iannacci, penso. Tu hai anche messo un brano di Iannacci nel tuo album. Sì, è un grande maestro. Gino e Michele, insomma, ci conosciamo da tanti anni. Io ho sempre lavorato con comici della loro scuderia in generale, milanesi, insomma, abbiamo fatto movimenti, diciamo, tra virgolette, spettacoli, laboratori in cui gli autori, i cantautori suonavano e facevano spettacoli con loro. Mi hanno chiesto di fare le musiche per il loro spettacolo Passati col Rosso, quindi questa cosa mi ha permesso di approfondire l'amicizia con loro, e poi ho fatto appunto le musiche per lo spettacolo. Sono in scena con Enzo Messina, che è il produttore artistico del mio disco insieme a me, e poi gli ho chiesto se volevano partecipare alla produzione del mio nuovo quinto disco. Gli è piaciuta l'idea, gli ho fatto sentire i provini e l'hanno prodotto loro. Outside is my side. Che bello che vederti passeggiare davanti a un monumento nazionale, chiamare un taxi e farci accompagnare al chiosco delle angurie, alla statale. È vero amore o no? Siamo solo noi a scorgere il bagliore che fa il cielo, o sei tu o siamo noi. Siamo noi. Tante canzoni di tormento, tormento, malinconia. Quando poi hai in mano il disco e lo riascolti, dici: ma Che cosa vi succedeva? Ti capita? Sì, è proprio così. Tormento, non solo, ci sono tante storie, però c'è una buona fetta di lato oscuro, diciamo, perché per essere in questi tempi in cui è uscito Star Wars, citiamo il lato oscuro. Il lato oscuro è venuto fuori, nel senso, proprio perché ti dicevo, ho voluto fare una ricerca più personale, più mia, e mi sono accorto che nel momento in cui volevo scrivere delle storie credibili, non potevo che parlare di quello che mi succedeva. e ho trovato dei serbatoi di darkness dentro di me che non credevo di trovare. Insomma, ho fatto una piccola seduta psicoanalitica in solitaria ed è venuto fuori questo. Ho esorcizzato un po' di cose che avevo lì, ne ho parlato e vabbè, poi non sono tutte così, cioè, ma c'è tanta come dire malinconia per alcuni versi in alcuni pezzi, però si sa, io in realtà sono una persona molto gioiosa e la gioia è parente della malinconia, perché è il suo, diciamo, alter ego che porta alla profondità e al piacere poi di goderne davvero della gioia quando è vera. Legato mani e piedi a questo palo della luce, ad aspettare un giorno la mia libertà, è la città che offre solo urla da rapace e vino da gettare via lo stomaco. Sono contento se mi vieni più vicino, ma il tuo alito di vino no, non è divino. E poi la musica dai fa ormai ristagna come acqua di fogna, e io legato questo palo della luce, mentre luce non ce n'è, anzi c'è scuro, mentre la troia si è asciugata anche l'ultimo velo di passione marinaia. Tu puoi fare una partita con la sfiga oppure lascia il posto ad uno nuovo, qui si resta appeso a questo palo della luce. Ti ho fatto parlare dei testi, però voglio chiederti quali sono invece state le tue scelte musicali anche rispetto al passato. Sì, abbiamo cambiato un po', dipende. Io e Enzo Messina, che è stato produttore anche dell'artistico in toto, quello del disco precedente, che era Genere di Conforto, che è un disco fatto con l'orchestra Dasky, sì, l'orchestra Dasky, sono di cani 25 che suonano, cani che ululano, no, d'archi volevo dire. Questa d'archi che insomma era dedicato un po' al mondo del cinema, quel disco. Qua siamo stati un po' più liberi, ho affrontato territori per me anche nuovi, tipo il prog, cioè il primo pezzo è una suite di 8 minuti che ha 4 atmosfere diverse all'interno, c'è sempre il blues. Perfetta per le radio, perfetta per i 2 minuti delle radio. lo so, ma tanto le radio, tranne te e pochi altri, non mi vogliono. No, però ci sono anche tanti altri pezzi molto più radiofonici, più corti. E beh, c'è sempre il blues di mezzo, perché per me è un po' come, io se non avessi fatto il musicista mi sarebbe piaciuto fare il cuoco. Ma il cuoco prima delle star, esatto, della cucina. E credo che il blues per me sia l'olio o il burro, la base dei piatti. Poi dopo uno può cucinare un risotto, la selvaggina, il pesce, ma parti sempre dall'olio. Per me quell'olio lì è il blues, quindi io lo declino. Che poi il blues non inteso come le 12 battute di Chicago, quel mondo lì. No, ma proprio è un'attitudine, è proprio un modo di sentire, di vedere, di raccontare e di sentire il tempo, di riprendere. Quindi è un po' una cosa che pervade tutti i miei dischi e qui c'è ancora. Però ho declinato anche in altre forme, magari anche un po' più crooner in alcuni versi. C'è anche un po' di... Cioè Frank Sinatra è un mio idolo. E infatti qualcosa di inglese c'è oltre al titolo. Sì, c'è un ritornello di un inciso che è Vecchi vestiti nuovi. In cui volevo, no, anche quell'inciso lì diceva una cosa che volevo un po' nascondere, tornando alla malinconia di cui parlavi, e quindi l'ho voluta un po' nascondere a me stesso, l'ho lasciata in inglese, cioè: ma se in questo mondo, amore mio, siamo 7 miliardi e ci siamo incontrati io e te, forse probabilmente ce ne saranno almeno 50.000 che vanno meglio di me per te, e come facciamo a dire ok, finiamola qua, facciamo questo patto, se ce ne saranno anche altre 50.000? Questa è una domanda che mi e così l'ho tenuto in inglese questo concetto, così lo nascondiamo un po'. Ho passato una notte da hooligan, ti prego vienimi a cercare. Ho passato una notte da hooligan, ti prego vienimi a salvare. Mi si strusciava e mi gridava in un orecchio, posso uccidere il tuo nome. Due dita sul bancone, ti prego vienimi a cercare. Ho passato una notte da hooligan, ti prego vienimi a salvare. L'ultima cosa che ti volevo chiedere è proprio questo: nella vita e nella carriera ci può star di tutto, ci può stare un Sanremo quasi da ragazzino, sì, a poco più di 20 anni, fare la band sul palco da supporter per rockstar in tour come hai fatto tu, perché tu, sì, hai accompagnato Zucchero, Tina Turner, insomma un po' di tutti. Ci stanno i premi a musicultura, sì, è una scatola in cui ci hai messo e continui a metterci di tutto? Sì, spero di metterci anche tanto altro. Questa è la storia che mi è capitata. Ho sempre fatto un percorso, ecco, come hai detto tu, io ho iniziato giovanissimo con una grande casa discografica, la EMI. Fece un contratto a una band che eravamo io e un altro musicista che si chiamava Fabiano Veronese, che chiamavamo Caligola, e siamo andati a Sanremo. Cioè avevano, quando ancora la discografia produceva, ora non produce più, come ho detto prima. E quindi io, insomma, l'ho visto il mondo degli outsider, l'ho visto all'interno, poi ho capito anche le logiche, ho capito quanta libertà ci potrebbe essere o quanta non ce n'è. E poi, insomma, credo che il successo per il successo sia un desiderio vuoto, spurio, inutile. Il successo, se vuoi sempre dare, diciamo, del tuo allo specchio la mattina, è una cosa che capisci qual è il tuo modo di arrivarci, se ci vuoi arrivare, e qual è. Quello che ho scelto io mi ha portato a fare cose diverse, cioè il modo di cercarlo, questa cosa, questa ribalta, diciamolo così, mi ha portato anche a affrontare canali diversi, mondi diversi, palcoscenici diversi. Pensavi a musicultura, pensa a musicultura, che è un premio importante in Italia per la canzone d'autore. Io non ci volevo neanche andare, mi hanno iscritto di nascosto, come a Miss Italia, quelle che dicono: ma ho accompagnato un'amica, hai fatto così con musicultura. Straordinario. Sì, io non avevo amiche, sono andato da solo. E poi mi hanno dato 3 premi. Vedi, poi la vita è così, bisogna far fare un po' la vita, come diceva Iannacci, no? Fai fare la vita questa vecchia fatica, ci pensa anche un po' lei, se la accompagni, la secondi, la guardi. Poi tipo, ogni tanto ti serve dei cibi bitter e a volte sweet. Quando capirai che non potrò più camminare neanche in mezzo alla strada, e quando capirai che non potrò più aggrapparmi a quel balcone che c'è in mezzo alla strada, e quando arriverà la sera e penserai che la mattina dopo non potrebbe arrivare mai, e tu eri là che stavi a mare, che bel fresco non devi dare, che ti frega di uno che e fa fatica a camminare. Allora quando mi dirai che è proprio roba da imbecilli vomitare proprio in mezzo alla strada, e quando ti dirò che è per fatica di capirti che mi viene da vomitare qui giù in strada, e quando arriverà sera e penserai che la mattina dopo non potrebbe più arrivare, tu eri là che stavi al mare, che bel fresco devi dare, che ti frega di uno che e fa fatica a vomitare. Allora